Vabbè, siamo contenti di fare questa presentazione perché in realtà Domenico con questo libro sta girando tutta l'Italia e non l'aveva ancora presentato ad Abete Grasso, quindi a un certo punto ci siamo detti, vabbè, presentiamolo ad Abete Grasso, presentiamolo al Folletto. Ci teniamo particolarmente perché per un po' di situazione, nel senso che Domenico lo conosciamo da più di 10 anni. E con Domenico abbiamo condiviso parecchi percorsi, parecchie situazioni rispetto al territorio, ma con uno sguardo anche un po' più ampio. Tant'è vero che poi ci siamo anche rincontrati con Domenico in Val Susa, e il confronto è sempre stato continuo e fitto rispetto a quello che succedeva nel nostro territorio, ma anche in giro per l'Italia. Tant'è vero che poi appunto l'esperienza di Cambiamo Abete Grasso e non ultimo, o comunque una delle prime situazioni in cui ci siamo trovati con Domenico a condividere, è il discorso della tangenziale, della superstrada che 13 anni fa è stato il primo momento in cui si è prospettata l'idea, la possibilità di questo mega progetto infrastrutturale, che poi è tornato proprio in questi ultimi mesi in modo repentino, è ritornata l'idea di fare questo progetto. L'altro pezzettino importante dell'ultimo anno, dell'ultimo anno e mezzo, è il discorso del Pajanuz, che è proprio qua, cioè è una porzione di territorio di Abete Grasso che poi è diventato simbolico nel rappresentare quello che è i cambiamenti che vive Abete Grasso, che vive il Parco Agricolo Sud, il Parco del Ticino, e è diventata una battaglia emblematica. Tant'è vero che anche adesso è ancora lì, non sappiamo, il proprietario, dopo tutta la vicenda, adesso ha proposto un altro progetto, un nuovo progetto che in realtà è molto simile a quello di prima, e sempre si parla di 20.000 metri quadri di centro commerciale più altro residenziale su un'area che per noi è diventata simbolica, per questo quartiere è simbolica, per Abete Grasso è diventata simbolica perché è qui vicino, la attraversiamo, la conosciamo bene, nel senso che comunque c'è una storia lunga legata all'Annunziata, legata agli orti che c'erano qua, ancora adesso. Appena oltre la ferrovia c'è il parco che comunque è ancora attraversato da tutti i ragazzi, dalle persone del quartiere, e poi al di là della strada c'è l'aria umida che è stata prosciugata in gran parte dal proprietario perché era l'unica possibilità che avevamo di agganciarci alla difesa di quel territorio perché poi c'aveva tutta una serie di specificità interessanti anche al di là di questo territorio, perché poi a 25 km da Milano avere in un'area urbana una situazione del genere che si è generata spontaneamente con specie autoctone sia di tipo vegetale sia di tipo animale, però il proprietario ha capito che quello poteva essere un vincolo e infatti ha fatto tutta una serie di interventi di prosciugamento, di interventi che in realtà erano, a nostro avviso, preparare il terreno, cancellare l'area umida, loro lì la giustificavano con un intervento agricolo. Quindi è ancora tutta viva quella parte lì, anche se poi tutta una serie di difficoltà legate più al tenere vivo una lotta del genere, con tutto poi le connessioni politiche che la gente di Abete Grasso conosce, però comunque tenere viva una lotta del genere non è stato semplice, è stato bello, interessante, però comunque è anche faticoso. Questi sono i temi centrali che Domenico poi ne ha fatto da amministratore, perché poi comunque l'esperienza di Cassinetta poi ci racconterà Domenico, cioè ha vissuto sia da un punto di vista appunto della battaglia di dire no a un certo tipo di progettualità, ma anche poi costruire uno sguardo di tipo propositivo. Io in questi ultimi mesi che è ritornato il discorso della tangenziale lo continuo a ripetere al Folletto, con le persone del Folletto ci abbiamo ragionato spesso e volentieri rispetto a sta cosa. La cosa più interessante dell'attraversare la battaglia no tangenziale è stato il discorso che a un certo punto quel no l'abbiamo ribaltato in un discorso propositivo, di costruire un immaginario positivo che poi io lo ricordo sempre, cioè la terra trema, il discorso di quell'evento legato all'agricoltura, quindi declinare lo sguardo rispetto al mondo in cui viviamo attraverso l'agricoltura è nata dentro un movimento del genere. A un certo punto incontriamo gli agricoltori, con gli agricoltori decidiamo di valorizzare quello che è un modello di sviluppo, un'attività agricola in questo territorio e declinarla in modo diverso. Tant'è vero che poi negli anni, non solo per noi, però dentro in quel movimento lì, si è incominciato a ragionare di un modello di produzione diverso, di un rapporto di distribuzione diverso, di un modello di consumo diverso. E a nostro avviso, cioè, è una delle parti più interessanti e meno raccontate, meno esplicitate, il fatto che comunque dentro un movimento del genere poi nasce una declinazione come la terra trema, un discorso di agricoltura e dentro lì incominci a ragionare. E la cosa più interessante e più importante di quella roba lì non è tanto poi il modo di produzione, no? Adesso poi è interessante, magari lo faremo anche la connessione rispetto all'Expo e ai temi dell'Expo, no? Cioè non è tanto poi parlare del fatto quanto sono bravo perché produco biologico, ma la roba interessante era il rapporto che si creava tra un agricoltore, quindi una persona che ha un'attività anche imprenditoriale e anche quindi di reddito, di lavoro vero e proprio, connessa con dei cittadini che stanno sullo stesso territorio e quindi delle connessioni di tipo economico, ma non di tipo economico tradizionale. Quindi un po' lo sguardo è di capire quello che sta succedendo rispetto al modello di sviluppo tradizionale, istituzionale, quello che va per la maggiore, che poi nei dati, no, ha fatto questo libro che si chiama 8 metri al quadrato al secondo, che vuol dire 16 ettari al giorno che perdiamo in Lombardia. Fino all'anno scorso si perdeva un'azienda agricola al giorno, sono 70 ettari all'anno, 25.000 in un anno, su 70 al giorno, 25.000 a livello nazionale, mezza Italia, e quindi dentro lì guardare quell'erosione di territorio, di cemento, e dentro lì ci sta un modello di sviluppo, di interessi economici connessi poi appunto grandi opere. E quindi attraversare, cosa vuol dire attraversare? Non è un caso che poi Domenico attraversa la Val Susa, noi attraversiamo la Val Susa, non è un caso che poi la connessione con quello che è un grande evento come l'Expo, e che poi non è un caso che si propone, cioè dietro a questa erosione di territorio, ci viene raccontata con il cortocircuito sul discorso che ti parla di agricoltura e di sfamare il pianeta. Quindi, sono temi che ci interessano, che ci attraversano, e è quello che più di altre esperienze politiche è attraverso quello che il nostro agire politico si è un po' declinato in questi anni con Domenico. Quindi è un'opportunità di presentare un lavoro che Domenico sta portando in giro per l'Italia, ma è un lavoro che in qualche modo ha uno sguardo appunto molto localizzato che vale, può essere declinato a livello nazionale se non globale. Quindi oh, questa era un po' la premessa di quello che è il lavoro che abbiamo condiviso con Domenico in questi anni, e il fatto che era importante secondo noi farlo anche qua al Folletto, ad Abbiategrasso, dentro al Pagianuzzi, insomma. Quindi questa era un po' la cosa. Sì.